كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي بلجيتو. A cura di Sadia, Ola e Heba. Per gli egizi ogni colore aveva un preciso significato. Il verde e il turchese, che richiamavano la vegetazione e l'acqua, rappresentavano giovinezza e rigenerazione. Il rosso era il deserto e perciò il caos. Gli egizi elencavano i nomi delle entità ritenute pericolose. A questo colore si contrapponeva il nero della terra fecondata dal limo, che simboleggiava l'eterno rinascere della natura. Il giallo, il colore dell'oro, era associato alle membra degli dei. Il bianco, ovvero sia l'argento, corrispondeva alle loro ossa. Il blu dei lapislazzuli simboleggiava i loro capelli. Il bianco si ricavava dal gesso o dal calcare, finemente tritato. Per ottenere il celeste si utilizzava l'azzurrite, per i marroni si mescolavano ossido di ferro e pigmenti bianchi, il nero era ricavato dal carbone o dall'ossido di manganese, per il rosso si utilizzava l'ossido di ferro anidrato, il verde veniva prodotto polverizzando la malachite, per ottenere il giallo usavano l'ossido di ferro idratato. Dall'Egitto di Mubarashi. حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. راديو كايرو vi presenta L'occhio del ciclone. Un programma curato da Magda Hammam. Amici di Radio Cairo, buonasera. In Egitto, come in Italia e come in tutto il mondo, Facebook è diventato un comune fenomeno sociale, a tante persone, in altri termini quasi indispensabile. Tramite Facebook sono partiti ultimamente rivolte e manifestazioni, come è accaduto in Tunisia e in Belgio. È diventato molto comune che le agenzie stampa ci riportano notizie come questa. Bruxelles. Oltre 50.000 persone hanno partecipato alla Marcia della Vergogna, la manifestazione svoltasi per protestare. 5 studenti, fiamminghi e francofoni, alcune settimane fa hanno lanciato l'iniziativa su internet, soprattutto attraverso Facebook e Twitter, per mobilitare la società civile. Secondo l'editorialista egiziano Mohammed Baraka, non è altro che una medicina amara. Non so se siete d'accordo con lui oppure no. Comunque vi presenterò il suo articolo redatto sul quotidiano Al-Ahram il 21 gennaio, in cui cerca di spiegarci il suo punto di vista e perché lo è. L'articolo inizia così. La moderna tecnologia non è altro che un'amara medicina, cura il malato e abbellisce artificialmente l'uomo. Infatti Facebook è diventato un altare visitato da milioni di persone. E alla domanda perché tenete così tanto a curarvi con la medicina chiamata Facebook, senza esito tutti rispondono. Perché è un sito magnifico, sociale, che ci permette di chiacchierare, parlare di quelli assenti, essere ipocriti con quelli presenti, in altri termini, sito di comunicazione umana. E malgrado che da un anno che uso Facebook, preferisco ancora oggi rimanere cauta e agire secondo il detto popolare, non ti amo, ma non riesco ad allontanarmi da te. Qualche giorno fa mi sono accorto che il numero dei miei amici su Facebook è diventato 2.298, quasi 3.000, cioè 8 e mezzi al giorno. Per me questo significa che siamo stati a lungo sbagliati nel credere in quel che ci hanno insegnato i nostri genitori dicendo: il libro è il miglior amico, è difficile trovarne un amico e sei fortunato se tu riuscissi a trattenere un amico fino all'età di pensione. A quei tempi non si pensava che il numero di amici potrebbe arrivare a 3.000. Infatti oggi sento una grande responsabilità verso i miei 3.000 nuovi amici. A loro devo tanto: contattarli, inviarli cartoline d'auguri e grafica di rose nei giorni di festa. Facebook ha reso l'amicizia come il parlare, senza dogana. Non passano 2 o 3 giorni senza trovare una fila di persone che richiedono la mia amicizia. Una decina di donne e di uomini, ragazzi e ragazze, il maggior numero di loro ha messo una sua finta foto, forse più bella o più giovane della realtà. Altri hanno scelto di mettere a posto della foto un emblema politico oppure un segno religioso. Senza esagerare, tutti questi che stanno in fila aspettano da me un click affinché la nostra amicizia diventi ufficiale e che venga registrata nel fascicolo elettronico in presenza e in testimonianza di tutti i miei altri amici di Facebook. Vorrei confessare che sono entrata a far parte di Facebook non per avere amici, ma per riuscire a vendere o invitare la gente ad assistere a una presentazione dei miei libri. Ora che i miei amici sono in tanti e il loro numero è arrivato a 3.000, ho paura del malocchio e per difendermi dagli invidiosi ho deciso di non accettare gli inviti. Grazie a Dio, ora le norme di quel sito sono state modificate. Prima mi chiedevano di fare un click su ignora, ma adesso mi chiedono di fare click su più tardi. Veramente sono assai generosi e ben educati. Uno dei temi che ultimamente ci hanno stupito come paesi di immigrazione è vedere anche l'Italia soffrire per i suoi immigrati in Svizzera. Non abbiamo mai immaginato una cosa simile e leggere degli articoli sui giornali che accusano la Svizzera per il suo comportamento verso gli immigrati italiani. Ma la vita è così. La campagna pubblicitaria shock iniziata su Facebook è finita su enormi cartelli pubblicitari nelle strade svizzere. Ha trasformato gli italiani e i rumeni in ratti che affondano i denti nel formaggio Canton Ticino. E sui muri di Lugano, in Svizzera, 45.000 frontalieri italiani, illustrati come topi, volgarmente definiti ratti, che divorano una forma di formaggio. Ma i svizzeri si sono comportati male, oppure hanno ragione di rifiutare gli italiani che vanno da loro per lavorare e per incrementare il mercato svizzero. Tanti articoli sono stati scritti in Italia su questo argomento e i redattori italiani hanno accusato con fermezza il comportamento della Svizzera, dimenticando completamente che l'Italia e loro stessi stanno manovrando tante simili campagne pubblicitarie contro gli immigrati. L'opinione pubblica egiziana segue con molta attenzione in regola e non quelli clandestini, se anche siano egiziani. Secondo noi non è logico che uno viene ad aiutarti e tu lo tratti male, come hanno fatto i svizzeri. Sul quotidiano La Repubblica, Ilaria Carra ha scritto un articolo su un esempio di immigrati egiziani, un articolo veramente interessante in cui dice: tutti uomini, tutti egiziani sotto i 30 anni, i maestri del ferro che intatti incuriosano anche solo dalla vetrina, la stanza di vaporelle e amido da sulla strada. Dietro la cassa del negozio è un grande affare. Passate, ripassate, spruzzate d'amido. 12 fino a 15 camici all'ora e poi tutto il resto. 8 ore al giorno, spesso pure la domenica perché non si chiude mai. Si lavora molto per gli alberghi, dai 7 ai 9 euro la paga oraria. La titolare della lavanderia aveva delle donne prima. Poi l'inversione di marcia. Prima ne ho provato uno, poi un altro, alla fine li ho tenuti tutti, spiega Annalisa Riva, la sua tintoria all'angolo con Via Casati dei primi anni 80. Sono bravi, minuziosi e non danno problemi. Con le donne, una che non aveva voglia, l'altra che voleva sempre i weekend liberi, e poi era un battibecco continuo, così l'atmosfera sul lavoro è migliorata. Anche la madre, tintrice sempre nella zona, stessa scelta. E loro, i maghi della stireria, a chiedergli dove hanno imparato restano quasi sorpresi. In Egitto sono gli uomini che stirano benissimo, non c'è da stupirsi. Una delle notizie più belle date con l'inizio del 2011 è quella che sottolinea che la provincia di Roma aprirà una campagna per il diritto alla cittadinanza italiana dei bambini figli di immigrati nati a Roma. La notizia è stata annunciata dal presidente Nicola Zingaretti, intervenuto al convegno capi del Lazio della GESCI, l'associazione guide scout cattolici italiani. Una comunità civile si vede nella capacità di dare valore alle differenze, ha spiegato Zingaretti. I ritardi e le deficienze della politica devastano l'essere comunità sin da bambini. Secondo Zingaretti è importante il lavoro di chi fa educazione, dalla scuola alle associazioni come quella scout, trasmettere il messaggio che la diversità è una ricchezza. La campagna annunciata dal presidente Zingaretti muove nella giusta direzione, anche perché il territorio della provincia di Roma risulta essere una tra le aree a più alta densità di stranieri di tutta la nostra regione, sottolinea Francesco Pasquali, capogruppo di Futuro e Libertà al Consiglio regionale del Lazio. Così siamo giunti al termine di questa nostra puntata. Ciao ciao e non mancate la prossima settimana sempre a questa stessa ora. Da Radio Cairo avete appena ascoltato Nell'occhio del ciclone, a cura di Magda Hammam, presentato da Alessia Bulman. Sono le 20:15, qui il Cairo, radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo ora all'ascolto del notiziario. Cominciamo, cari ascoltatori, con il riassunto delle principali notizie. Raggruppamento di più di 50.000 manifestanti al centro del Cairo. Impegno dell'esercito egiziano a non ricorrere alle violenze. Proseguimento della chiusura delle banche e della borsa egiziane. Funzionamento a piena capacità del canale di Suez. Ed ora le notizie in dettaglio. Più di 50.000 persone si sono raggruppati presto stamani nel centro del Cairo per una manifestazione gigantesca, antigovernativa. Degli elicotteri sorvolano regolarmente il centro del Cairo e l'esercito controlla numerosi accessi al centro città. L'esercito egiziano ha dichiarato nel suo comunicato che le rivendicazioni del popolo sono legittime e si è impegnato a non ricorrere alle violenze contro i manifestanti. Il vicepresidente Omar Suleiman ha annunciato di essere incaricato dal presidente di aprire un dialogo immediato con l'opposizione attorno a tutte le questioni legate alle riforme costituzionali e legislative. Le forze armate hanno annunciato la loro messa in guardia contro ogni azione che possa portare danno alla sicurezza e alla stabilità della patria e contro il saccheggiamento dei beni pubblici e privati. Le forze armate hanno riaffermato in un comunicato che la libertà d'espressione di forma pacifica è garantita per tutti i cittadini. L'esercito egiziano ha annunciato che non ricorrerà mai alle violenze contro le manifestanti, giudicando legittime le rivendicazioni del popolo che manifesta da una settimana contro il governo. L'Unione degli studenti delle università in Egitto ha appellato i giovani a mettere in priorità l'interesse della patria contro ogni tentativo di sabotaggio. Nel suo comunicato, l'Unione ha appellato i giovani egiziani ad essere a livello della responsabilità nei confronti degli avvenimenti in corso. L'Unione ha ugualmente appellato le autorità in Egitto ad affrettarsi e di assicurare la sicurezza e di combattere ogni azione di sabotaggio e di pirateria contro i cittadini. Il ministro dell'interno Mahmoud Wagdi si è incontrato con i suoi aggiunti. Nel corso dell'incontro Wagdi ha messo l'accento sulle direttive del presidente Mubarak che appella alla necessità di reinstaurare la sicurezza e la stabilità nel paese e che ogni cittadino dovrebbe sentirle nelle strade egiziane. Egli ha ugualmente sottolineato la necessità di cooperare con i cittadini e facilitargli l'ottenimento dei servizi di sicurezza. Il segretario generale della Lega Araba, Amr Musa, ha espresso la sua speranza che la fase attuale passerà in pace, soprattutto oggi, dopo le gigantesche manifestazioni antigovernative che si sono svolte al Cairo e ad Alessandria. Il presidente dell'organismo del canale di Suez, il generale Ahmad Fadel, ha affermato che il movimento della navigazione nel canale è normale e che le navi navigano secondo un calendario fisso senza alcun ritardo. Per quanto riguarda la navigazione del porto di Safaga, egli ha affermato che lo spostamento delle navi è ripreso normalmente, soprattutto per trasportare i passeggeri verso il porto di Daba in Arabia Saudita, mentre la navigazione si è arrestata davanti alle navi turistiche. Dopo una settimana di proteste in Egitto, le controcolpi economici si fanno sentire. Le banche e la borsa sono chiuse. D'altra parte, il corso del greggio negli scambi elettronici in Asia rimane al di sopra di 100 dollari al barile. Il Fondo Monetario Internazionale è pronto ad aiutare l'Egitto a ricostruire la sua economia, ha indicato oggi il direttore generale dell'istituzione Dominique Strauss-Kahn. Da Radio Cairo siete all'ascolto del notiziario. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri francese ha annunciato che il suo governo non esamina attualmente alcun piano di evacuare i suoi cittadini dall'Egitto. Il portavoce ha dichiarato che il numero dei suoi cittadini supera i 10.000. D'altra parte, l'AFP ha dichiarato in un rapporto che Mosca non ha consigliato ai suoi cittadini, il cui numero supera i 40.000 turisti, di lasciare l'Egitto. L'AFP ha inoltre aggiunto che i turisti hanno deciso di proseguire le loro vacanze alle coste del Mar Rosso. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che un ex ambasciatore americano in Egitto, Frank Wisner, è al Cairo attualmente, dove incontrerà dei dirigenti egiziani. Il vicepresidente americano Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il re di Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa sugli ultimi sviluppi sopravvenuti in Egitto. I due interlocutori si sono impegnati a proseguire i loro contatti su questo argomento. La partita amichevole di football tra l'Egitto e gli Stati Uniti, prevista il 9 febbraio al Cairo, è stata annullata a causa degli avvenimenti che si svolgono attualmente nel paese, lo ha annunciato la Federazione Americana. La partita annunciata il 13 dicembre dovrebbe essere la prima a contrastare gli Stati Uniti in Egitto. Dei responsabili delle due Coree si impegneranno dei negoziati militari l'8 febbraio, per la prima volta dal bombardamento di fine novembre effettuato dal nord contro un'isola sudcoreana. Le Coree del nord e del sud si sono messi d'accordo per l'apertura di negoziati militari l'8 febbraio. Lo ha annunciato oggi il Ministero sudcoreano della Difesa. Si tratta del primo incontro dal bombardamento contro un'isola sudcoreana dal nord il 23 novembre scorso che ha provocato una viva tensione. Con questa notizia termina il notiziario di oggi da Radio Cairo. Arrivederci. Radio Cairo vi presenta Prima pagina. Programma curato da Ebtisam Abdelmegid. Buonasera a tutti cari ascoltatori e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata del vostro programma Prima pagina. Cominciamo il nostro giro di stasera con i titoli del quotidiano Al-Ahram e leggiamo: nuovo governo in Egitto capeggiato da Ahmed Shafi, ex ministro dell'aviazione civile e chiamato attualmente dal popolo egiziano il premier della salvezza nazionale. Il nuovo vicepresidente Omar Suleiman, ex capo dei servizi segreti, gode del rispetto da parte degli egiziani. Dei nuovi ministri degli interni e delle finanze, mentre dei ministri della difesa e di mass media hanno mantenuto le loro posti. Promuovere la democrazia, dialogare con l'opposizione e ristabilire la fiducia nell'economia del paese sono le missioni del nuovo governo. La priorità del nuovo primo ministro è la riduzione della disoccupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro. Dal quotidiano Al-Ahram passiamo a Al-Akhbar e leggiamo sempre i titoli della prima pagina. Il popolo egiziano ha accolto favorevolmente le pattuglie di sicurezza della polizia che hanno proseguito di svolgere il loro ruolo in coordinazione con le forze armate per ristabilire la sicurezza e la pace nel paese. Le forze della polizia hanno riuscito ad arrestare più di 5.000 prigionieri che si sono fuggiti da 4 prigioni in diversi governatorati del paese. Dal Akhbar passiamo a Al-Masri Al-Yom e leggiamo: una marcia di più di 1 milione di persone nell'ottavo giorno di proteste popolari senza precedente in Egitto. Il canale di Suez lavora con tutta la sua capacità e la situazione attuale non ha nessuna influenza sulla navigazione nel canale. I risultati delle ultime elezioni legislative in Egitto, denunciate come irregolari da parte dell'opposizione, saranno corrette in funzione di decisioni di giustizia attesi prossimamente. Concludiamo il nostro giro con la rivista Ahesa e leggiamo: il grande imam di Al-Azhar, dottor Ahmad El-Tayeb, ha reso omaggio al ruolo nobile e alle posizioni coscienti dei giovani egiziani che sostengono e appoggiano le forze armate nella salvaguardia della sicurezza e della protezione delle proprietà pubbliche e private contro i fautori del disordine. Un altro titolo: il Papa Shenouda III, patriarca di Alessandria, ha elogiato il ruolo svolto da parte delle forze armate a mantenere la sicurezza e affrontare i fuorilegge. Carissimi amici, termina così il nostro giro giornalistico di stasera. Arrivederci. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Prima Pagina, un programma curato da Sam Abdelmegid. Lo ha presentato oggi Ameni Shahin. Yeah.

Dopo la piena, le acque del Nilo inondavano le terre. Gli antichi egizi erano allora obbligati a ritracciare le frontiere dopo l'abbassamento delle acque. È così che gli antichi egizi furono i primi ad aver posto i principi della scienza delle figure dello spazio, che è la geometria. Ed è al Nilo che va il merito di conoscere la scrittura. Sulle sue rive spuntavano i papiri che avevano utilizzato gli antichi egizi per scriverci sopra e registrare la loro storia gloriosa. È grazie al Nilo che l'antico Egitto ha posto le basi di molte scienze, da cui ha tratto profitto non solo l'Egitto, ma il mondo intero. La Radio Cairo avete appena ascoltato Il Nilo, fonte di vita, un programma a cura del dottor Mahmoud Maher Taha, presentato da Alessia Bolman. Da Radio Cairo vi presentiamo La metà della mela, programma curato da Hanna Akhir. Amici di Radio Cairo, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di questo vostro programma che vi presenterà le notizie della donna e della famiglia in Egitto. Il diritto dei bambini a poter esprimere liberamente la loro opinione e a essere ascoltati è il tema della seconda conferenza regionale sull'Osservatorio dei diritti per l'infanzia organizzata dal Ministero della Famiglia egiziano, alla quale hanno preso parte rappresentanti del Ministero del lavoro ed esperti di ONG italiani, oltre a rappresentanti dell'UNICEF e di vari paesi come lo Yemen, il Mozambico e la Nigeria. L'Italia, ha affermato l'ambasciatore Claudio Pacifico, in apertura della conferenza si sente vicino all'Egitto nel suo impegno per la protezione dei diritti umani, delle minoranze e dei segmenti più marginalizzati della società, come i bambini, così come viene portato avanti dal Ministero della Famiglia, guidato da Mushira Khattab, ricordando la collaborazione di quasi 10 anni fra Italia e Egitto in questo settore. Il Ministro ha sottolineato come il diritto alla libertà di esprimere la propria opinione deve valere per i maschi e le femmine, soprattutto in società dove le famiglie tendono a discriminare le bambine nell'educazione e nelle attività ricreative. In Egitto i ragazzi al di sotto dei 18 anni rappresentano circa il 40% della popolazione e, secondo cifre fornite da Philippe Duhamel, rappresentante UNICEF per il paese, solo lo 0,6% dei ragazzi dai 10 ai 14 anni e il 2% degli adolescenti dai 15 ai 17 partecipa ad attività volontarie extrascolastiche. Secondo la tradizione egiziana, il bouquet va acquistato dallo sposo, che provvederà a farlo recapitare a casa della sposa la mattina stessa del matrimonio. La scelta, invece, spetta alla sposa perché il bouquet deve essere considerato come un complemento non secondario dell'abito con il quale deve convivere in perfetta armonia. Si può affidarsi al messaggio simbolico dei fiori, puntare sui fiori preferiti o rispettare l'offerta della stagione. Si può farlo comporre dallo stesso fiorista che ha seguito l'intero allestimento floreale della cerimonia e del ricevimento o da un flower designer, ma sempre nel rispetto di alcune fondamentali regole di bon ton, i due parametri irrinunciabili ai quali fare riferimento sono il modello e il colore dell'abito e la figura. Il lancio del bouquet è un rito al quale è difficile sottrarsi. Alla fine del ricevimento, la sposa lo lancia verso il gruppo di amiche non sposate. La leggenda racconta che chi lo raccoglie convolerà a nozze entro l'anno. In alternativa, la sposa può donarlo alla sua amica più cara oppure dividerlo in tanti mazzettini da destinare alle amiche single. Se vuol conservarlo come ricordo della giornata, dovrebbe farlo essiccare in un luogo chiuso e asciutto. È inusuale che in Egitto la cultura pop riesca a prendere piede al punto da orientare le menti delle donne egiziane e far dire loro cosa pensano realmente del matrimonio e dell'amore. Eppure un semplice programma televisivo si fa portavoce, in una società conservatrice, del dibattito sul cambiamento del ruolo femminile. Stiamo parlando di una sitcom intitolata «Mi voglio sposare», che lancia un messaggio forte e chiaro. Le donne vogliono avere parte attiva nel cercare il compagno della loro vita e non subire passivamente le scelte di padri, madri o corteggiatori. La serie è stata trasmessa durante il mese sacro del Ramadan e, con uno stile tutto sommato ironico e divertente, ha portato in televisione la cosiddetta crisi del matrimonio in Egitto, di cui fior fiori di sociologi, molti dei quali di sesso maschile, dibattono. Un modo leggero, insomma, per cominciare a discutere di una tematica pesante, quale quella dell'autonomia femminile in un paese tradizionalista. Praticano lo judo, se la cavano con il karate. Hanno superato test attitudinali sulla valutazione e la gestione dei conflitti e hanno vinto lo scetticismo e il protezionismo dei loro padri conservatori. Sono le Lady Guards, guardie del corpo egiziane. Sono guardie del corpo con il velo, arruolate per garantire la protezione e il comfort a businesswomen, cantanti, attrici, avvocatesse e principesse dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi in vacanza sul Nilo, che spesso non sono a loro agio nell'essere scortate da Caio, Mustafa e Mohammed nei negozi e di essere perquisite all'entrata di ristoranti e di alberghi di lusso da energumeni maschi e maschilisti arabi. Le Lady Guard sono assunte da un gruppo di servizi. Esso fornisce servizi di sicurezza che variano dalla sicurezza delle persone alla consegna di oggetti di valore per conto terzi all'organizzazione di sistemi di sicurezza nelle aziende. Dispone di un parco guardie di 3.800 addetti, di cui 300 sono guardie del corpo donne, oltre al servizio classico della protezione delle loro clienti. Le Lady Guards lavorano alle postazioni dei metal detector, negli aeroporti, nei grandi alberghi, nei ministeri e nei tribunali. Il gruppo che ha lanciato il servizio VIP in rosa 3 anni fa pubblica regolarmente annunci di lavoro per la ricerca di Lady Guard sui giornali egiziani. I requisiti del job description sono un'età tra i 20 e i 35 anni, un diploma di scuola media superiore e skill in arti marziali. L'esito delle diete dimagranti dipende anche dal sonno. Dormire poche ore per notte può vanificare gli sforzi fatti per dimagrire attraverso una dieta a basso apporto di energia. E questo è il dato che emerge da una recente ricerca. L'indagine ha coinvolto 10 adulti in sovrappeso, 3 donne e 7 uomini non fumatori, con età media di 41 anni e indice di massa corporea medio di 27,4 kg, metri 2, sottoposti per 14 giorni a un regime dietetico caratterizzato da un modesto introito calorico. Ai soggetti inseriti nello studio è stato concesso un riposo di 8,5 o 5,5 ore per notte. In seguito è stata valutata come prima misurazione la perdita di massa grassa e massa magra. Sono poi stati considerati i cambiamenti relativi a uso dei substrati, dispendio energetico, fame e concentrazioni degli ormoni metabolici nell'arco delle 24 ore. Dai risultati emerge che la riduzione delle ore di sonno diminuisce la proporzione di massa grassa persa del 55%, 0,6 kg con 5,5 ore di riposo notturno invece di 1,4 kg con 8,5 ore di sonno, e aumenta la perdita di massa magra del 60%. Amici di Radio Cairo, la metà della mela a cura di Hana Kher. مادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد مرفرف فوقنا علم ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين الله الله الله المصريين هم في الدنيا أول أمة المصريين هم في الدنيا أول أمة متحضرين ومؤمنين المصريين هم حيوية وعزم وهمة المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين المصريين هم في الدنيا أول أمة المصريين هم في الدنيا أول أمة متحضرين ومؤمنين لتاريخ ميلادي أو هجري، وفي كل مكان وزمان هو هو المصري. المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري، وفي كل مكان وزمان هو هو المصري. لاسمر أبو ضحكة ترد الروح، لاسمر أبو ضحكة ترد الروح. أعرفه من بين مليون إنسان، أعرفه من بين مليون إنسان. صاحب واجب يفديه بالروح، صاحب واجب يفديه بالروح. ولا يرضى بظلم ولا بهوان، ولا يرضى بظلم ولا بهوان. لاسمر أبو ضحكة ترد الروح، لاسمر أبو ضحكة ترد الروح. أعرفه من بين مليون إنسان، صاحب واجب يفديه بالروح، صاحب واجب يفديه بالروح. ولا يرضى بظلم ولا بهوان، ولا يرضى بظلم ولا بهوان. ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا شوفي. ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا وشوفي. ويا دنيا لف وطوفي، لف وطوفي، تعالي وشوفي. الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله، المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم